Puntualissimi in diretta, ore 8 di questo giovedì 23 marzo, aperta dal 18 marzo, quindi siamo in apertura per questa importantissima esposizione. E ben sapete, quando vengono portati sul podio alcuni artisti che sul podio devono essere, ma dei quali si parla un pochettino meno, quanto si abbia la possibilità di fare questo sia importante per la nostra rubrica, ma soprattutto per voi ascoltatrici e ascoltatori appassionati di arte, perché il lavoro che troviamo a Palazzo Ducale nell'appartamento del Doge fino al 18 giugno del 2023 nella Regina dei Mari, nella Serenissima, nella Repubblica dei Dogi, nella Venezia che tra 1400 nel passaggio al 1500 vede uno splendore molto importante. È un secolo che, quando la Serenissima domina un vasto impero marittimo, commerciale e culturale e fiorisce come grande centro di divulgazione per questi contenuti. Carpaccio, con le sue caratteristiche che ascolteremo tra pochissimo dalla voce di Andrea Bellieni, co-curatore dell'esposizione, rappresenta lo stesso Carpaccio come un esponente della venezianità, ossia uno spettacolo importante, la mitologia della Repubblica Serenissima e il suo apogeo economico e culturale, soggetti religiosi ma non solo, e la possibilità di trovare in dialogo anche ricostruzioni in arte di cui vi parleremo. Sono dipinti anche i disegni, saranno fino al 18 giugno del 2023 la lezione di storia dell'arte curata da Andrea Bellieni per la mostra dedicata a Vittore Carpaccio, in conversazione con Radio Città Fujiko, inizia proprio dal periodo che abbiamo portato per raccontare di questo protagonista. Sentiamo le sue parole. Fine 400 e inizio 500, diciamo, per avere, come dire, una collocazione cronologica. La data di nascita di Carpaccio è incerta, comunque è tra 1460 e 65, quindi diciamo lui diventa pittore maturo negli anni 80 del 400 e poi opera fino agli anni 20 del 500, quindi lui è morto probabilmente, anche qua non c'è la data esatta, tra 1525 e 26, quindi sono anni assolutamente dinamicissimi sia a livello europeo sia a Venezia. Quindi a Venezia e a livello europeo succede di tutto in questi pochi decenni, soprattutto le grandi scoperte, le grandi rotte, no, intercontinentali. Allora Cristoforo Colombo 1492 che apre la rotta atlantica, Vasco da Gama che passa a sud dell'Africa per raggiungere l'India, quindi diciamo un momento di grandi cambiamenti. Nel Mediterraneo noi comincia a diventare veramente preponderante la potenza ottomana turca che risale i Balcani e arriva veramente a invadere addirittura il Friuli negli anni 70 del 400. Peraltro Venezia in questo momento sta vivendo un momento di particolare splendore anche culturale. Pensate che tutti passano per Venezia in questo momento. Venezia che in questo momento sta anche diventando la capitale europea dell'editoria, no? La grande invenzione della stampa a caratteri mobili, che certo Gutenberg a Magonza inizia, però Aldo poi Manuzio. Esatto, Aldo Manuzio poi a Venezia è il primo grande editore moderno, l'editoria diventa un business e soprattutto la circolazione della cultura prende un'accelerazione che è incredibile. Da Rotterdam a Venezia, i grandi pensatori, Leonardo da Vinci nell'anno 1500 è a Venezia con Luca Pacioli, insomma è un crocevia di intellettuali incredibile. Dal punto di vista artistico lo stesso, perché Venezia è comunque un epicentro di innovazione proprio qui nel campo delle arti visive. I grandi protagonisti della scena veneziana, si sa, in questo momento sono soprattutto i Bellini, i Vivarini, ma in realtà Venezia è in crocevia anche di altre scuole, di altre tendenze. A Venezia si conoscono benissimo e circolano i pittori fiamminghi, i cosiddetti primitivi fiamminghi. È arrivato nel 75-76 Antonello da Messina e quindi le grandi anche innovazioni prospettiche, diciamo, dell'Italia centrale. Insomma, Carpaccio si trova in mezzo a questo straordinario clima. Mm-hmm. Passion Flower, lui è Oliver Nelson, sarà la colonna sonora dedicata a Vittore Carpaccio, in quanto l'aspetto descrittivo, l'estetica e il trovarsi in un crocevia di struttura musicale al quale Oliver Nelson ha portato una particolarità, una peculiarità importantissima, che è l'aspetto scenografico e l'aspetto narrativo. Scopriremo allo stesso modo che il protagonista in arte nel Rinascimento veneziano e non solo ha dato questa possibilità, ed entrambi, diciamo, sì, parliamo di Sonny Rollins, di John Coltrane, di tantissimi musicisti, ma Oliver Nelson, ecco, è quel musicista, a parte che ha fatto poi un disco che di solito porto in frequenza e che per me è uno dei dischi da isola deserta, uno dei dischi da salvare per portare. Quali dischi portate nell'isola deserta in caso di un viaggio interminabile? Ecco, quello sarebbe un disco che io porterei, e ne parleremo tra poco. Intanto stiamo ascoltando questo fiore di passione alla tromba, Oliver Nelson, Kenny Dorham. L'arrivo di un John Coltrane, di un Antonello da Messina, che con la prospettiva dà un senso diverso a quella che è l'arte, che prende nel Rinascimento veneziano, con l'arrivo di questo gigante, un aspetto decisamente di crescita. Lo stesso immenso Giovanni Bellini sarà protagonista, sempre e comunque uno degli artisti che sapete nel cuor mi sta. Ecco, e con l'arrivo di artisti che vanno in collaborazione, in dialogo fra di loro, i Vivarini, altri artisti importantissimi in questa scena, troviamo il Carpazzo, Scarpazzo, dalla famiglia, appunto, poi il nome fu modificato, e sentiremo con l'Identikit in questo segmento di conversazione con Andrea Bellieni, appunto, una piccola così biografia iniziale, dopo aver parlato di un aspetto temporale dell'epoca. Ora conosciamo il nostro protagonista. Lui è un ragazzo di una famiglia, diciamo, borghese. Sono la famiglia degli Scarpazza, è interessante il cognome della famiglia originaria, proprio così, molto, molto veneziano, Scarpazza, cioè Scarpaccia. Dopo lui latinizzerà il nome, no? Carpazio, quindi così, latinizzandosi e nobilitandosi. Però appunto una famiglia di commercianti di pellame, anche abbastanza agiati sembra, e lui appunto comincia, non si sa bene quale sia esattamente il suo percorso, diciamo, formativo a livello artistico. In realtà nella sua personalità confluiscono varie tendenze, varie conoscenze, soprattutto i Bellini, per la prima opera che abbiamo scoperto recentemente qui nel Museo Corrèa, firmata nei depositi, è apparsa la firma, ma è la firma ancora che fa riferimento al nome antico della famiglia, quindi Vettor Scarpasso, così si firma lui a poco più di 20 anni, in questa prima Madonnina, che è tutta belliniana, quindi dipende proprio moltissimo dal grande caposcuola veneziano Giovanni Bellini. Però già si vede che appunto altre influenze agiscono su di lui, quindi i Vivarini, quindi gli altri protagonisti veneziani, ma probabilmente anche i Ferraresi. Sicuramente poi lui si nutre moltissimo anche qui, invenzione moderna, di incisioni soprattutto xilografiche. Conosce benissimo Dürer, ne aveva evidentemente i cassetti pieni delle incisioni di Dürer, e sono tutto materiale che lui utilizzerà lungo tutto il corso della sua attività. Insomma, è un crogiolo però personalissimo, nel senso che ne emerge una sua poi personalità molto spiccata, che è molto particolare, direi, nel panorama veneziano di allora, perché lui si distingue subito come grande, come dire, narratore di storie, regista, vorrei dire modernamente, nel senso che lui subito, già dagli anni 90, impiegato dalle scuole, e le scuole sono queste confraternite laicali, un'istituzione, come dire, nella società veneziana molto importante, perché sono confraternite devozionali nell'intento, ma in realtà sono delle specie di, chiamiamoli club, no? Specie di Rotary, ecco, noi diremo, o Lions, no? Dove tra l'altro avveniva questo incontro, peraltro, come dire, non così scontato, tra la classe nobiliare, quindi i patrizi, e i borghesi, no, perché c'era tra una borghesia molto, come dire, intraprendente e ricca nella Venezia dell'epoca, quindi erano i mercanti, ma erano anche soprattutto gli artigiani, no? Quindi, come dire, hanno una funzione sociale le scuole centrale, proprio nella Venezia di quegli anni, e queste scuole, a volte appunto anche molto ricche, dotate di beni, di eredità, si dotano di sedi che vogliono prestigiose, e quindi quasi tutte poi vengono arricchite da cicli decorativi, tra l'altro interessanti perché certo fanno riferimento alla storia sacra, ma poi diventano in realtà dei palcoscenici ideali dove gli stessi confratelli si fanno ritrarre, no? E quindi ecco che le scuole del ciclo di Carpaccio, e sono quattro durante la sua attività, il primo che comincia nel 1490 è quello della scuola di Sant'Orsola, sono in realtà delle, sì, il racconto è quello sacro, è quello delle, è la vicenda appunto di questa principessa Breton che sposa il principe di Bretagna pagano e che poi ha questo compito di evangelizzazione degli unni che occupavano colonie, insomma finirà male, martirizzata insieme a 11.000 vergini compagne, insomma una storia, come dire, complessa e anche drammatica nel suo epilogo, ma in realtà il palcoscenico diventa una sorta di Venezia trasfigurata, un po' fantastica, perché quella era l'esperienza, diciamo, anche architettonica, anche così visiva di Carpaccio, per cui, come dire, questi luoghi lontani, anche un po' esotici, diventano in realtà proiezioni della stessa Venezia, poi ripopola di ritratti veri, che sono i confratelli, sono i personaggi veneziani principali dell'epoca. La divagazione a Venezia, la scuola di San Rocco, Tiziano Tintoretto è stato l'unico posto di esposizione artistica e di storia dove sono stato ripreso da chi custodiva, insomma, questa immensa dimora d'arte, di una bellezza veramente, perché non uscivo più. Mi sono soffermato, ovviamente c'è un pubblico che giustamente deve godere tutte e tutti di questa bellezza, ecco, io non mi spostavo più, non riuscivo a uscire dalla scuola di San Rocco, e giustamente ci scusi signore, ci dispiace, ma non può soggiornare qui. Care of Your Business, lui è Oliver Nelson, stiamo ascoltando appunto questo brano del Train Whistle, il fischio del treno, ma è un pochettino rimaneggiata la parola treno, è Train da John Coltrane. I musicisti con lui, ne cito alcuni: all'organo Hammond, Johnny Hammond Smith, George Tucker al basso, Roy Haynes alla batteria, grande regista, scenografo, narratore di un'estetica unica, Oliver Nelson, che dà le note anche all'esposizione di oggi. Thank you. Buongiorno, buongiorno signor Oliver Nelson. Alle 8:17 minuti vi ho lasciato in compagnia di questo assolo splendido. Beh, per onorare il Antonello da Messina, John Coltrane, the Train Whistle, dal disco Taking Care of Your Business. Poi è un cognome che ha portato una derivazione a un cognome tipico veneziano, veneto, anche polesano, che è Scarpa, e quindi da una famiglia di conciatori, di commercianti di pellame arriva questo artista che nasce in una famiglia borghese di mercanti in una Venezia in piena espansione sia culturale che per quanto riguarda il commercio. Lo sguardo a Oriente sempre e comunque sarà motivo di apertura, e quello che poi anche in dialogo con l'arte troverà nella nostra penisola un confronto. Già citato più volte Antonello da Messina, il massimo secondo me esponente, cioè un caposcuola, un grande come Giovanni Bellini, insomma abbiamo avuto già motivo di conoscenza di questi grandissimi artisti. I dipinti e i disegni per Carpaccio saranno a Palazzo Ducale nell'appartamento del Doge fino al 18 giugno 2023. La mostra è promossa dalla Fondazione Musei Civici di Venezia, ha delle collaborazioni importanti che avremo motivo di conoscenza poi nella nostra conversazione con Andrea Bellini, che ringrazio ancora una volta per questa lezione di storia dell'arte. Poi ci soffermeremo su un'opera che veramente ha l'aspetto narrativo molto particolare. Ma a proposito di aspetto narrativo, sentiamo le peculiarità di Vittore Carpaccio. Per cui, come dire, sono racconti che diventano straordinariamente attuali e basati anche, come dire, sulla fantasia da una parte e sulla realtà dall'altra. Lui è anche un grande descrittore, cioè proprio come un pittore fiammingo riprende la natura, gli uccelli, i fiori, oltre a tutti i particolari, per esempio, di abbigliamento dei costumi dei suoi personaggi, per cui anche un pittore molto raffinato, no? Ecco, la mostra, arriviamo alla mostra, perché sennò un po' vi annoio. La mostra in realtà, per ragioni contingenti, non può avvantaggiarsi dei grandi cicli. Due sono quelli che si conservano, diciamo, integri a Venezia: quello di Sant'Orsola, a cui abbiamo fatto cenno, che è il primo, e si conserva oggi presso la Galleria dell'Accademia di Venezia. E poi c'è l'unico che rimane nella sede d'origine, presso la scuola di San Giorgio degli Schiavoni. La scuola dalmata era la confraternita nazionale identitaria degli immigrati dalla Dalmazia, cioè praticamente attuali coste della Croazia e del Montenegro, no? Tra l'altro è l'unica scuola, assieme a quella di San Rocco, sopravvissuta alle soppressioni napoleoniche. Tuttora è interessante questa scuola, che è una bella sede, fa riferimento proprio alla comunità proprio di origine dalmata. Ecco, questo è l'unico ciclo che rimane a Venezia, proprio nella sede d'origine, molto famoso, con delle icone straordinarie, molto celebri, come il San Giorgio e il Drago, no? Gli altri, purtroppo, sono gli altri due cicli, sono tutti dispersi. Siamo riusciti a ricomporne uno di questi due ulteriori, quello della scuola degli Albanesi. Sono dipinti, sono sparsi tra Milano, Bergamo, e tre sono qui alla Cadoro a Venezia. E poi c'è quello di Santo Stefano, che è sparso tra Parigi, Stoccarda, Berlino, insomma. Ecco, siamo riusciti chiaramente a Venezia, i cicli rimangono nelle loro sedi, sarebbe stato anche difficile il trasferimento in mostra. Però in mostra ci sono intanto tutte le altre opere dell'artista che ci parlano di lui, sono state raccolte veramente in collezioni e musei internazionali, molte cose vengono anche dal di là dell'Atlantico. Questa mostra, ricordiamolo, è coprodotta assieme dai Musei Civici di Venezia, assieme alla National Gallery di Washington, che possiede nelle proprie collezioni tre o quattro pezzi veramente importanti del maestro, e sono tutti naturalmente in mostra qui a Palazzo Ducale. Poi abbiamo raccolto anche moltissimi disegni. Ecco, c'è da dire che di Carpaccio ci rimane il corpus grafico più nutrito, più cospicuo tra quelli di un pittore veneziano, e vorrei dire in assoluto italiano, del Rinascimento. Cioè, sono decine di fogli, mi siamo riusciti proprio a raccoglierne uno qua, uno là, con grande fatica, ma insomma ne valsa la pena, una trentina, e fanno alcuni sono tutti preparatori per fare dipinti, sono tutti, come dire, disegni funzionali, dagli schizzi rapidi a quelli, diciamo, più di dettaglio, molto rifiniti. E quindi, diciamo, in mostra i grandi cicli, e questo appunto, questa sua fatica di pittore che più lo tenero occupato, sono proprio evocate proprio dalla presenza di questi studi preparatori, di questi disegni. Quindi nell'insieme sono 30 disegni e circa 40 dipinti che ci restituiscono un pittore che appunto è quello che abbiamo finora descritto, no? Quindi un grande regista, un grande raccontatore di storie. Ci sono dei bellissimi riquadri singoli con la storia di Ippolita, quindi con riferimento appunto a Boccaccio, il mito di Cece che è ripreso da Ovidio, no? Dalla metamorfosi di Ovidio. Metamorfosi. Sì, sì, e quindi diciamo che è comunque rappresentata questa sua tendenza narrativa. dalle metamorfosi di Ovidio, di cui tanto abbiamo parlato anche lunedì nei magazine, che poi viene portato in esilio perché dà un'immagine delle divinità veramente vendicative, severe, e ricordiamo che le divinità erano a loro volta una rappresentazione del potere politico, e quindi Augusto decide di allontanarlo nonostante questo immenso talento di uno dei più grandi che Ovidio. A proposito di narrazione, perché riprende il mito di Ceice il nostro protagonista Vittore Carpaccio? È uno dei miti protagonisti delle Metamorfosi, ed è di una bellezza, di un romanticismo e anche di uno struggimento. Sposò Alcione, e dalla loro unione, che fu così tanto felice, ma veramente una coppia di sposi che vivevano in letizia, gioia, passione, e pensate, erano talmente pieni del loro amore che decidono di chiamarsi fra di loro Zeus ed Era. Come nomignolo, si chiamavano come le massime divinità dell'Olimpo, come la coppia massima delle divinità dell'Olimpo. E quindi Zeus si indignò per questo affronto. Beh, come ti permetti di parlare? Capisco che sei felice, sei contento, sei innamorato, ma come ti permetti di chiamarti in questo modo? E si è voluto vendicare, ma in maniera molto forte. Durante una tempesta in mare, appena vide Ceice in viaggio, in navigazione, aumentò tremendamente questa tempesta. Beh, lui con fulmini e saette ne aveva purtroppo la capacità, e lo fa annegare. La sua ombra apparve ad Alcione, che, rendendosi conto della morte del marito, cosa fa? Non ci pensa due volte, va subito in mare, si getta in acqua per cercare disperatamente di raggiungerlo o di morire con lei e con lui. E gli dei, ovviamente commossi di tutto ciò, ne ebbero una pietà e trasformarono i due amanti in due gabbiani. Tanto legati al mare che fecero il loro nido molto molto così, anche in maniera iconografica, vicino al mare. E purtroppo Zeus non si accontentò e continuava a distruggerlo, e loro continuavano a ricostruirlo, che persino Zeus rimane sconvolto dalla loro tenacia e decise di placare il mare per 7 giorni prima e dopo il solstizio d'inverno, affinché potessero tranquillamente far l'amore e riprodursi. E guarda caso, quella è la stagione del gabbiano, appunto, per la riproduzione. Il nome scarpa, come ho già detto, ma a me, quando trovo dei cognomi o dei casati nelle zone soprattutto clodiensi, di Chioggia o sottomarina, Boscolo, Tiozzo, e poi il detto. Non tutti sanno che c'è il detto che è ufficialmente riconosciuto, è Boscolo Caporale, perché magari veniva da un casato che sul lavoro o in ambito militare aveva un grado e un'importanza. Non so, Mario Tiozzo, detto Caenasso, perché la famiglia veniva da lavoratori del ferro, producevano i catenacci, producevano la lavorazione del ferro, ma ce ne sono tantissimi. Cegion, perché è un pochettino sovrappeso, non era molto politically correct, ma tant'è. E hanno valore ufficiale all'anagrafe. Se erano macellai, braciola. Piccolo stacco con la pubblicità, poi torneremo perché ci soffermeremo su un'opera che viene riunita in questa esposizione. Ne parleremo nella seconda parte della rubrica In Mostra. A tra poco. E beh, questo è il Tutti i tempi di Oliver Nelson dal disco The Blues and the Abstract Truth e Stolen Moments. Qui veramente è come entrare in un museo, in una scuola, in una sede espositiva, in una sede storica e trovare Bellini, Veronese, Tintoretto, il Giorgione, Vittore Carpaccio, i Vivarini, perché troviamo al pianoforte Bill Evans, Roy Haynes alla batteria, al contralto e al flauto traverso Eric Dolphy, il frontman, al tenore Oliver Nelson, alla tromba Freddie Hubbard e al basso, contrabbasso, Paul Chambers. Carpaccio e il percorso in mostra, quindi continuiamo con la nostra lezione di storia dell'arte, perché è veramente corposa, con un protagonista veramente da tenere in considerazione per una gita, per conoscere la Serenissima con un altro protagonista fino al 18 giugno 2023. Poi ci sono dipinti sacri, dipinti d'altare, qualche ritratto, appunto molti disegni, quindi 40 dipinti, 30 disegni, il tutto per restituire lo spessore di un pittore che forse negli anni più recenti è stato un po' appiattito in questa sua fama conquistata di raccontatore di storie, e in realtà lui è anche un po' di più, è anche di più, assolutamente di più, è anche un grande artista tutto tondo, con grande profondità, spiritualità, capacità introspettiva e anche, come dire così, emozionale, comunicativa, notevole. Ecco, è un pittore che appunto aveva bisogno, pensate che l'ultima mostra che gli è stata dedicata, grande, importante, monografica, è di 60 anni fa, sempre qui a Palazzo Ducale, nel 63, no? Si dice sia stata anche l'occasione dove appunto il ristoratore veneziano Cipriani, no, per ribattezzare un suo piatto di carne cruda, gli è venuto in mente lì per lì che poteva andar bene il nome del pittore che era esposto in quegli anni, appunto quei mesi, appunto a Venezia. In realtà sembra che l'invenzione della pietanza di nome Carpaccio sia venuta qualche anno prima rispetto al 63, comunque vabbè, è bello dirlo, è bello, certo, raccontarlo, certo. Così come il Bellini, questo stesso ristoratore e celebrità veneziana Arrigo Cipriani aveva inventato appunto il cocktail. Beh sì, in occasione del Bellini, in occasione di un'altra grande mostra monografica dedicata a Giovanni Bellini. È interessante queste intersezioni così, ecco, legate, sì, all'intrattenimento, sì, con gli aperitivi, e anche delle ottime pietanze. Certo. Adesso, se voi fate una ricerca su motore di ricerca qualsiasi su internet, mettete Carpaccio, mica vive fuori il pittore. No, ma ci manca. I locali migliori dove farla per cena viene fuori. Sappiamo bene l'epoca in cui viviamo. Vabbè, è così. Comunque è così. Funziona in questo modo. No, io chiudevo questa piacevolissima lezione di storia dell'arte. Mamma preziosa. Mia, scusate, veramente travolto. Preziosa invece. Queste due opere riunite finalmente. Ah, beh, questa è un'altra bella storia, sì. Sì, perché succede questo, che noi nelle collezioni del Museo Correr abbiamo questo quadro celeberrimo di Carpaccio, le due dame veneziane, no? Che nel secolo scorso, un po' equivocando appunto sulla vistosità dei loro abbigliamenti, erano state ribattezzate le cortigiane, no? Quindi, e sento tuttora qualche guida a usare questo titolo. In realtà appunto sono due distinte, ricchissime signore patrizie veneziane che oziano, diciamo, in compagnia dei loro animali, abbastanza litigiosi, un cane grande e uno un po' più piccolo, e sono concentrate ad osservare, quasi come fossero distratte proprio da un qualcosa, da un avvenimento istantaneo, concentrate a guardare fuori campo, no? Davanti a loro, pinto, diciamo, di formato verticale, pieno di dettagli, fiori, animali, elementi descrittivi. In realtà, in anni abbastanza recenti, si è scoperto che da questo dipinto, da questa raffigurazione, che aveva molto colpito e così anche inquietato proprio anche per il suo significato un po' misterioso, per la sua atmosfera così sospesa, un grande storico dell'arte dell'Ottocento, che è John Ruskin, che aveva Le pietre di Venezia. Certo, e che un suo scritto definisce questo quadro come il più bello del mondo, addirittura esagerando, certamente. molto al mio entusiasmo, John Ruskin. Ecco, proprio era veramente, come dire, catturato dall'atmosfera di questo dipinto così particolare. Volevo mettere in palio John Ruskin, Le pietre di Venezia. Mi trema la voce a parlarne, un saggio d'arte, una bellezza. Poi ho pensato, e se non lo ritrovo, magari un'altra volta sicuramente continueremo a parlare con un altro protagonista per quanto riguarda questa specificità. Se ne trovo un'altra copia, lo mettiamo in palio, perché Le pietre di Venezia è veramente qualcosa di tutti i tempi. Ecco, in realtà appunto è un dipinto che in realtà è solo una parte di un insieme che una volta era, come dire, più articolato, e soprattutto non era un dipinto, era una porta, pensate, era una porta a soffietto. E nella parte superiore di queste dame in realtà va attaccato un altro dipinto che oggi si trova al di là dell'oceano, che appunto abbiamo avuto in prestito per l'occasione e che appunto è stato ricongiunto con la parte sotto, ed è questa Caccia in Valle, che appunto completa il significato della scena, perché sul sfondo, quindi nella parte alta, quindi sullo sfondo di questa scena con le due protagoniste in primo piano, si vedono i mariti, due nobili veneziani, che praticano uno sport che doveva essere molto in voga all'epoca, fino al Settecento, cioè la caccia agli animali di laguna, soprattutto della famiglia delle anatre. I miei colleghi del Museo di Storia Naturale mi hanno detto che si tratta di svassi e strolaghe. Sì. No? E la caccia veniva con un arco che quindi lanciava delle ballotte, cioè dei proiettili di argilla, no? Per cui insomma era evidentemente uno sport molto molto praticato, e queste due donne praticamente in primo piano sul balcone aspettano annoiate, no? I mariti che sul fondo, no? si vedono spassarsela appunto a caccia. Quindi il tema è questo. E ritorniamo all'aspetto di colui che sa narrare come un regista. Assolutamente, sì, è proprio un grande regista, questo è il termine più esatto, perché lui proprio sa, cioè, oltre ad essere appunto minuzioso nella descrizione di ogni elemento, li sa appunto mettere in scena, quindi anche a livello scenografico, quindi imbastendo attorno alle storie sempre delle scenografie magniloquenti ed evocative, anche se fatalmente poi lui finisce sempre per ricordare un qualcosa di Venezia, no? E quindi appunto questi suoi protagonisti agiscono come attori, proprio anche con proprio una mimica, un'espressività assolutamente teatrale, direi, sì. Certo. Un grande raccontatore, un grande affabulatore. Sì, beh, capace anche di saper cogliere, oltre che dall'estetica e la tecnica, anche il trasmettere in maniera dimostrata. È lì il salto, no? Certo. Quindi, Vittore Carpaccio sarà a Venezia, Palazzo Ducale, appartamento del Doge, già aperta la mostra dal 18 marzo fino al 18 giugno 2023. Io la ringrazio tantissimo. A voi che mi avete ascoltato. Bella conversazione. Avete capito che sono, come dire, che sono un grande ammiratore di Carpaccio. Ah, ma ammirazione condivisa, eh. Ecco, sì, è un pittore da riscoprire, direi, no? Forse, vuol dire, è stato molto popolare negli anni 60, soprattutto dopo questa grande mostra. Come dire, non mancavano nelle case di tanti italiani, no? I maestri del colore, i classici dell'arte Rizzoli, che avevano tutti un numero monografico dedicato a Carpaccio, proprio perché si prestava a essere anche illustrato proprio, sì, in quadricromia proprio. E poi forse è stato un po', come dire, un po' trascurato, ed è il momento di riscoprirlo. Quindi a Palazzo Ducale tutti quanti a riscoprirlo e a immergerci in questa Venezia fantastica di Carpaccio. Grazie, buona giornata e a presto. A voi, grazie mille. Arrivederci a tutti gli ascoltatori. Blues, ecco qua il Tintoretto, Jacopo Robusti, o meglio dire Eric Dolphy al contralto. Un'altra narrazione in musica da Oliver Nelson, che appunto stiamo ascoltando, da Screaming the Blues, The Meeting, l'incontro. Il decennio del 950-60 è stato per il jazz un po' come il passaggio 400-500 ai tempi della Serenissima, se vogliamo, con questi fantaparagoni tra queste mie passioni che, insomma, condivido con voi ascoltatrici e ascoltatori dei 103.1, ringraziandovi oltre che per i consigli in musica che mi avete dato in prima mattina, per l'ascolto di questo Breakfast Club in mostra. Vittore Carpaccio, dipinti e disegni, Venezia, Palazzo Ducale, appartamento del Doge, fino al 18 giugno 2023. A breve avremo l'Edipeo enciclopedico, seguirà Liberi Dentro, la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, dopodiché dalle 10.30 alle 12.30, This is a Rock and Roll Radio. Con Andrea Gozza e Angela Zocco io vi do appuntamento a domani. Un'altra ricca puntata in scena si alza al sipario sui 103.1 alle 11.30, poi domani avremo Jazz Live, poi vigilia di weekend, il primo weekend di primavera, e un buon ascolto sulle frequenze dei 103.1 di Radio Città Fujiko, con i saluti immancabili, un grande abbraccio, buona giornata dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti, a domani.